Radio 24 Reportage. Cina Italia, andata e ritorno nella lotta al virus. Di Anna Marino. Così, sull'onda dei rintocchi di mezzanotte e al suono dei clacson delle auto che sono tornate a circolare e delle sirene delle imbarcazioni che hanno ripreso la navigazione sul fiume Giallo, dopo la mezzanotte dell'8 aprile, Wuhan è tornata libera. Finito il durissimo lockdown per l'emergenza Covid-19, 76 giorni a cui è stata sottoposta la popolazione della città cinese, primo focolaio di coronavirus, dopo quasi 11 settimane, alle 18, ora italiana. E noi, per ricordare, partiamo dalle storie delle persone, italiani con una vita tra il nostro paese e la Cina, che hanno vissuto settimana dopo settimana il precipitare di fatti ed eventi sulla propria pelle. 23 gennaio 2020, ore 10, la città cinese di Wuhan va in lockdown, una misura per impedire che il virus comparso a dicembre si diffonda ulteriormente nel resto del paese. 495 casi di contagio in un solo giorno, 10 volte più di quelli confermati due settimane prima. Il mondo mano a mano realizza e inizia ad accorgersi del pericolo. Una settimana dopo il lockdown di Wuhan, il 30 gennaio, l'OMS dichiara l'emergenza globale e l'11 marzo la pandemia. Poi il contagio si diffonde fuori dai confini cinesi, arrivando anche in Europa e in Italia. Gioele Leone ha 19 anni, è nato e cresciuto a Milano. Nel 2016 ha fatto la terza superiore con i ragazzi cinesi. Si è diplomato in Italia a giugno 2019 presso l'Istituto Manzoni di Milano. Vive in Cina da quando ha iniziato a settembre 2019 i suoi studi in affari internazionali e diplomazia alla migliore università dell'Asia, la settima nel mondo, a Pechino, dove da poco ha chiuso l'ospedale dei record, già aperto in una settimana, nel lontano 2003, durante l'epidemia della SARS, dimessi gli ultimi due pazienti. Ecco il giorno in cui è scoppiato il coronavirus nella vita di Gioele. Io mi trovavo a Shanghai perché erano le vacanze del Capodanno cinese, stavo prendendo un treno per tornare a Pechino e vedevo tutti i capi stazioni, tutti i camerieri sulle stazioni che avevano la mascherina, mentre le persone non ce l'avevano, e aprendo WeChat, social network tipo WhatsApp, ho notato che c'erano tanti articoli riguardanti la situazione di Wuhan, anche se nell'area c'era già da un po' di tempo, perché già da novembre le persone di Hong Kong erano a conoscenza di questa situazione che c'era a Wuhan. E cosa hai pensato subito? Che dovevo andare a prendere una mascherina. Tu che cosa facevi lì? Io studio all'Università Tsinghua di Pechino e in quel momento mi trovavo in vacanza perché era il Capodanno cinese a Shanghai. Avevi scelto di fare questo percorso quando? Questo è il mio primo anno e resterò per 4 anni e sto studiando diplomazia e affari internazionali. Da quale studio sei arrivato? Quando è che hai deciso, insomma, di trasferirti in Cina? Hai pensato che questo fosse il futuro? Io arrivo dall'Istituto Superiore Manzoni di Milano e dopo aver conseguito il diploma ho fatto l'application per questa università e sono stato preso e sono proprio iscritto in un'università in Cina. Perché questa scelta? Perché per una carriera diplomatica io volevo studiare all'estero, perché a me in futuro piacerebbe fare l'ambasciatore, lavorare comunque per il dialogo internazionale, e siccome io conosco la lingua cinese mi è sembrata una buona scelta anche per le relazioni che ci sono adesso tra Italia e Cina, e anche perché l'Italia adesso è entrata nella via della seta. Perché nella tua vita è entrato il cinese già prima, insomma, di scegliere di vivere là? Io nel 2016 ho vinto una borsa di studio, ero al mio secondo anno delle superiori e avevo 16 anni e sono partito per la Cina e ho studiato un anno di cinese lì, ho frequentato proprio una scuola cinese con i ragazzi cinesi. Poi sono tornato in Italia, ho preso il diploma qui e alla fine mi sono di nuovo ritrovato in Cina per l'università. E ti sei trovato in Cina anche nel momento più cruciale, più terribile, in quei giorni lì, giorno per giorno, come hai visto cambiare il posto in cui abitavi? Pian piano le persone hanno smesso di uscire, non c'è stato alcun divieto di uscire a Pechino, era svuotata, è stato proprio impressionante perché è una città di 26 milioni di abitanti e non vedere proprio nessuno per strada o nei centri commerciali è stato un impatto molto forte. Vedevi le notizie ogni giorno? I focolai di Wuhan e di Hubei. Inizialmente ci sono state anche in Cina delle fake news, c'è stato molto allarmismo, però dopo una settimana hanno iniziato a uscire delle linee guida, delle notizie attendibili, ogni giorno veniva pubblicata una guida. Ecco, le istruzioni sono bastate per fermare tutti e anche volontariamente molti si sono fermati, poi c'è stato anche il divieto nazionale, ma poi è arrivato, c'è stato anche il momento del Capodanno cinese, il momento delle vacanze cinesi. Tu cosa hai fatto? Nel momento del Capodanno cinese io appunto mi trovo a Shanghai, è stato proprio in quel momento, verso il 20 di gennaio, che è stata dichiarata l'emergenza, il Capodanno era il 17 e il Capodanno in Cina si vive come in Italia, cioè si mangia insieme dai parenti, poi si va a far visita agli amici e parenti, però quest'anno questo non è stato possibile e infatti è stato un Capodanno cinese molto particolare, sono stati tutti a casa. I prezzi delle mascherine sono schizzati, in ogni caso com'è stato possibile reperirli allora? No, assolutamente no, anzi in Cina la mascherina è una cosa che si usa tutti i giorni, anche quando è l'influenza è solita metterlo, quando c'è lo smog un po' più alto, quindi diciamo che le persone hanno già le mascherine in casa. Poi a un certo punto tu sei tornato in Italia, perché e come? Io avevo già programmato di tornare in Italia perché comunque le vacanze cinesi, del Capodanno cinese sono piuttosto lunghe, però io sono tornato in Italia proprio il giorno prima che mettessero il blocco, è stata una coincidenza che avessi il biglietto proprio quel giorno lì. E tornato in Italia io tenevo la mascherina per i primi 14 giorni, anche se nessuno mi avesse detto di farlo, non c'era stato un obbligo di quarantena per chi tornava, io l'ho tenuta. L'università è iniziata poi a metà di febbraio, quindi tutti, compresi i cinesi, non hanno avuto il permesso di tornare a scuola, quindi io sono rimasto in Italia, i cinesi sono rimasti a casa loro e abbiamo iniziato a fare tutte le lezioni online, anche educazione fisica, quindi con la webcam, e sta andando tutto bene, appunto. E tu hai vissuto anche il lockdown italiano, quindi da quando è stata chiusa la Lombardia, fondamentalmente, dai primi di marzo. Sì, esatto. Riesci a studiare a distanza? C'è il fuso orario, quindi magari mi ritrovo a fare matematica alle 2 di notte o motoria alle 4, però va bene, sì, sto riuscendo. Come tutti gli studenti italiani che stanno cercando insieme ai genitori di fare acrobazie, ecco, anche senza fuso orario. In ogni caso, quale sarà, insomma, la tua idea, della Cina? Cioè, ritornerai, avrai fiducia, finirai gli studi? Sì, io ritornerò in Cina probabilmente ad ottobre o a settembre quando ripartirà il secondo anno, perché al momento hanno chiuso le frontiere agli stranieri e non si può tornare. Ed era proprio in Cina per lavoro l'imprenditrice Eleonora Buganè Pedretti, Managing Director Furlog, azienda modenese che fornisce soluzioni intermodali di trasporto ferroviario, mare e aereo, traffico combinato gomma rotaia, logistica e spedizioni nazionali e internazionali. La Cina rappresenta il 35% del volume di affari dell'impresa. Furlog ha un presidio permanente con 10 persone madrelingua dedicate ed è stata messa però fortemente alla prova dall'emergenza coronavirus, come spiega Eleonora Buganè Pedretti. Noi lavorando molto con la Cina abbiamo risentito del Covid proprio già da quando è scoppiato in Cina, quindi i primi di gennaio, perché purtroppo tutte le aziende esportatrici italiane e europee avevano prima di tutto molte incertezze e molta mancanza di informazione. All'epoca vennero tagliati e cancellati diversi servizi per il trasporto marittimo, i noli aerei hanno subito subito grandissimi aumenti. Dal punto di vista ferroviario è quello che ha risentito meno di queste difficoltà, se non che era molto difficile la parte dell'ultimo miglio, ovvero quella della logistica nazionale cinese. Invece che cosa è andato avanti? Qual è stato invece il colpo di reni che avete avuto voi? Dal punto di vista dell'export, purtroppo io devo dire che si è ridotta ai minimi termini, sono pochissime le aziende ancora autorizzate a lavorare, ad essere produttive, mentre al contrario, appunto, è aumentato tanto l'import per quello che riguarda appunto l'importazione di dispositivi sanitari e il prepararsi alla riapertura del 4 maggio, perché sono tante le aziende che appunto hanno urgenza di approvvigionarci di questi materiali per essere in grado di riaprire. Che cosa avete fatto col personale? Avere personale in Cina per noi in questo momento più che mai è stato fondamentale, nel senso che tante, diciamo, aziende, magari nostre concorrenti, subivano mancanza di informazioni corrette. Il nostro personale cinese in Italia, italiano in Cina, viene formato dalla scuola di formazione della Fondazione Italo-Cinese, la formazione culturale anche del nostro personale sui due mondi così lontani. Quindi, in ogni caso, anche di fronte all'imprevedibile, essere flessibile e conoscere molto bene tutti i mezzi aiuta anche a affrontare le difficoltà. Il futuro passa necessariamente per la flessibilità e riuscire ad adattarsi appunto a situazioni sempre più imprevedibili. Io ero in Cina quando è scoppiato il Covid, mai avrei immaginato, e mi ricordo il primo venerdì in cui la Cina registrava un'inversione di tendenza, quindi un miglioramento netto della situazione dei contagi, mai avrei immaginato che lunedì invece in Italia avremmo avuto il blocco perché era arrivato anche qua. Quindi quindi purtroppo bisogna ragionare sempre più pensando al mondo come un'unica entità. L'impatto è stato un'onda d'urto senza precedenti sulla costellazione di imprese italiane in Cina che nel distretto di Hubei avevano legami forti con la logistica, in quello di Wuhan con il settore automotive. Filippo Fasulo, direttore CESIF, Centro Studi per l'Impresa della Fondazione Italia-Cina. La storia delle imprese italiane in Cina che vivevano anche loro un momento particolare, perché le famiglie e molti lavoratori sarebbero dovuti ritornare nel nostro paese in quella fase e sono rimasti in qualche modo bloccati. È vero però che buona parte di loro è riuscita a restare e nella seconda metà di febbraio oltre tre quarti avevano già ripreso l'attività. Quindi è importante sottolineare che in Cina nel giro di tre settimane molte aziende sono riuscite a riprendere, perlomeno ad aprire, poi la piena attività è un altro discorso. Non appena la produzione ha cominciato a riprendere è mancata la domanda internazionale, perché gli altri paesi come l'Italia, la Francia e poi altri paesi ancora si sono fermati. Dietro i numeri ci sono le storie, dietro le storie ci sono i numeri. Quanti sono i nostri imprenditori, piccoli, medi, grandi, che sono là? Abbiamo circa 2.000 aziende italiane presenti in Cina, considerando anche Hong Kong. La maggior parte sono a Pechino, a Shanghai e a Canton. Farà una presenza molto radicata e che in qualche maniera contribuisce al flusso di esportazioni italiane in Cina che vale 13 miliardi all'anno. Una campagna potrebbe avere come slogan che cosa? Si riparte insieme, questo è il punto fondamentale, che vale, è qualcosa che dobbiamo avere ben presente noi, ma che dovranno aver presente anche i cinesi. Alla fine l'orizzonte resta qui. In Italia e nel paese del dragone la prospettiva di una fase 2 e di una fase 3, e c'è un appello in cinese che vale per tutti, parola di Gioele, che vede comunque in Cina il suo futuro. Mi laureerò lì e poi si vedrà per il futuro, però sì, ho in programma di tornare in Cina ovviamente per continuare gli studi. Ecco, ci puoi dire, diciamo, una frase in cinese anche di buon augurio, di appello a stare attenti, insomma, a come ci si comporta in questo periodo di emergenza? Da jia jia yo, tu bao zhong, che vuol dire forza a tutti e fate attenzione. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.